Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi, siamo insieme, puntata dedicata a chi va di corsa per piacere o per dovere, con la testa o con i piedi, con entrambe. Sappiamo che correre fa bene al cervello e che per correre bene ci vuole la testa. L'importante e prendere e mantenere il ritmo giusto, ed è quello che faremo oggi. Se correte con i piedi, naturalmente collegati alla testa, questo lo diamo per scontato, è una regola, restate con noi perché in studio c'è Tite Togni, insegnante di yoga certificata Iyengar. Ciao Tite. Namaskar. Yoga per runner? Sì. Perché i runner, i maratoneti, le persone anche che non fanno una maratona ma che amano correre, dovrebbero avvicinarsi allo yoga. Sì, è una grande cassetta degli attrezzi che vengono molto utili nei momenti di bisogno, perché sennò la cassetta degli attrezzi è inutile. E quindi che tu faccia una maratona o no, o che semplicemente voglia ricominciare a correre, perché siamo nati per correre, non dimentichiamolo. Se quindi desideriamo tornare alla nostra primordiale natura, possiamo utilizzarlo attraverso lo yoga, questa magnifica, come l'hai definito tu, cassetta degli attrezzi, che ci riporta a due cose essenziali anche per correre, ma comunque nella vita: alla mente, intesa come meditazione, ascolto, e al respiro. Ascolto, quindi... hai detto tutto. La parola ascolto è sempre legata alla parola regina dello yoga, che è consapevolezza. Ho chiesto agli ascoltatori che corrono, amano correre, scelgono la corsa per allenarsi, per svagarsi, per liberare la mente, di restare con noi, perché per loro oggi tanti consigli, tante indicazioni, tante occasioni per prendere consapevolezza della loro velocità, per recuperare magari un ritmo più lento o per ottenere magari delle performance migliori. Tite. Diciamo che possiamo intendere così: quello che facciamo oggi è quello che possiamo fare mentre corriamo, dilatare il presente, dilatare l'atto della corsa e ascoltarci, così preveniamo gli infortuni e ottimizziamo anche il gesto della corsa. Possiamo. Se ci state ascoltando mentre andate di corsa, 800 24 00 24. Se siete fermi, tranquilli, in riposo, 800 24 00 24. Un numero verde per chi va lento e per chi va veloce, ma sempre con la mente, col cervello e con i piedi. A quanto pare nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho una noce grande così, piccola piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non sì, è che sono dottore, io non lo cervello, so. Cervello, che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nasce. Allora, qual è il numero più grande che riuscite a pensare? Un fantastigliardo. È un numero? No, un quadrilione. Un quadrilione è uguale a 1000 trilioni... cioè 1 seguito da 15 zeri. Questo è il numero di protoni che ci sono nell'universo conosciuto. Numeri enormi. Ma per criptare non usiamo solo numeri enormi, usiamo numeri enormi ottenuti moltiplicando grandi numeri primi, perché i numeri primi sono alla base della matematica. Rapido, scattante, veloce nel recuperare informazioni, nel fare collegamento, nell'apprendere. Il cervello lo vorremmo così, ma anche per il cervello, come per i nostri piedi, per la corsa, la velocità non sempre premia. Qua in studio con me oggi veramente sono felice, abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Con lei andremo veloci di mente. Andremo veloci di mente. Anche se la velocità, dicevamo, non sempre aiuta. La velocità non sempre aiuta. Lo sappiamo, quando siamo di fretta e dimentichiamo qualcosa. Perché la fretta va bene in alcuni momenti, ma non deve essere prolungata, perché procura stress. Quando noi siamo sottoposti a stress, il nostro fisico e il nostro cervello lavora male. Infatti noi diciamo: non mi ricordo, faccio fatica a concentrarmi, sono molto stressato, sono stanco. Sì, E molte volte è proprio vero, perché lo stress, quindi gli ormoni che vengono rilasciati in circolo, come il cortisolo ad esempio, vanno ad intervenire proprio su centri del cervello, ad esempio disturbano il lavoro della corteccia prefrontale, che serve per prestare attenzione a ciò che facciamo, così come a lavorare con la memoria immediata, piuttosto che ad essere flessibili mentalmente. Per cui c'è effettivamente un intreccio tra lo stress e il cervello. Ed è una cosa straordinaria, perché in tutte queste situazioni, quando lo stress fa andare in tilt il nostro cervello, può essere utile correre, perché c'è questa magnifica alleanza, relazione tra la corsa e il nostro benessere mentale. Vero, Tito? Tant'è che questo non vuol dire che correre rende più intelligenti, ma forse sì. Ma invece sì. Vabbè, vero? Perché tu corri. Bisognerebbe chiederlo al professor Iannocca, che invece non corre. È vero che la corsa fa produrre endorfine? Endorfine, è vero, sì. Che è un dopaggio naturale? È un dopaggio naturale. Fa, esatto, stare bene. Esatto. E le endorfine a cosa servono? Le endorfine servono per migliorare le attività del cervello. Fantastico. E questo, che e soprattutto fanno scendere questo nemico della nostra vita, quando è troppo in eccesso e mal gestito, che è lo stress. Allora, nemico dei piedi e del cervello, cerchiamo di misurare il nostro stress. Tite, ci rivolgiamo ai runner che tendono a fermarsi solo quando non possono più andare avanti, bloccati da un dolore che spesso è risultato di, a proposito di stress, allenamenti troppo stressanti. Sì. Infatti ormai è stato studiato e dimostrato che la più grande fonte di traumi è il sovrallenamento, non la mancanza di allenamento. Ormai siamo andati oltre. Okay? E questo perché? Perché in Occidente, in particolar modo, abbiamo dimenticato il momento dell'ascolto. Mm-hmm. Allora ascoltate. Ascoltiamo. È una Quindi, buona occasione. Ci siamo dimenticati di come, anche a forza di non ascoltarci, abbiamo dimenticato come fare ad ascoltarci. Dove andare a prendere, perché la mente corre, la mente non possiamo fermarla, la mente corre sempre, giudica, viaggia nel passato, nel presente, e quindi dobbiamo sempre cercare di collegare questo continuo criticismo con invece l'altra parte del cervello, il professore mi può dare ragione o meno, che è quella più primordiale, quella della semplice esperienza, il sentire, quello che dicevo, dilatare il presente. Quindi anche mentre corro, posso correre in due modi. Se non sono abituato ad ascoltarmi, corro finché stramazzo il suolo. Sì. E il corpo, non è tanto conveniente. E il corpo mi dà dei segnali. Prima di stramazzare, il corpo comincia a darmi dei segnali, ma se sì, io non sono abituato ad ascoltarli, vado avanti finché veramente tengo sono andata duro, tengo come duro, si dice. E invece, oppure se si no, può correre. Correre come faccio? Mi alleno con lo yoga, ascoltandomi, quindi sia le posizioni che la corsa sono come meditazione in azione. Diamo però qualche segnale ai nostri ascoltatori, sì, che stanno magari non si rendono conto di andare troppo veloci con i piedi e di essere stressati, di non tenere collegata la testa, e ci sono dei segnali che ci dicono che il loro lavoro è troppo stressante. Non quindi stanno la loro sui piedi. Non stanno sui piedi. Corrono con i piedi ma non stanno più sui piedi. Quindi la cosa migliore è mettersi, per esempio, anche la mattina di spalle contro un muro, con i piedi uniti e i talloni al muro, spalle al muro, e ascoltare il peso in Tadasana, la posizione della montagna di massimo allungamento, e sollevare le dita dei piedi, che servono solo per completare l'equilibrio. Sentire se sto su tutti e due i piedi, se ogni piede ha giù tutta la pianta del piede, e possiamo fare un quiz. Sì. Sentire se l'arco plantare è sollevato o sta giù. Allora, se avete la possibilità, se avete un muro, i due piedi, se avete un muro, se avete la possibilità di togliervi le scarpe, ecco. Ecco, potete appoggiarvi al muro, appoggiare bene i piedi per terra, sul pavimento, tirare su le dita dei piedi e capire dove va l'arco plantare. E ascoltare, non guardare. Senza no, chi guarda bara 800 24 00 24. Intanto, invece, professor Iannocare, lei gioca facile, tutti noi sappiamo, crediamo di essere stressati, usiamo lo stress a giustificazione delle nostre defiance. Quali sono le abilità cognitive che più risentono dello stress del cervello in corsa? Abbiamo diverse funzioni cognitive che sono implicate nello stress che vengono messe alla prova e sono la capacità di concentrarci e di prestare attenzione, la capacità di lavorare con quella memoria rapida che è la memoria di lavoro e poi la flessibilità mentale. Infatti, quindi quando... insomma, uno strazio praticamente è tutto. Sì, perché sono quelle funzioni che ci servono di più nelle attività quotidiane. E poi un'altra cosa importante è che lo stress agisce anche a livello profondo del cervello, e va a intaccare quella che è quelli che sono i centri della ricerca del piacere. Sì. Ecco, in questo caso, quando noi siamo stressati, cerchiamo delle gratificazioni sempre più forti e questo ci porta a ricercare anche delle gratificazioni immediate. Non è un caso che le persone che lavorano molto e sono stressate fanno fatica a concentrarsi su un compito che richiede un periodo prolungato di concentrazione e si dedicano ai dettagli. Sì. In questo modo loro riescono a trovare delle gratificazioni facili, immediate, piuttosto che rimanere sul problema generale. Ecco. Quindi guardiamo i dettagli e non la sostanza. E non la sostanza, sì. In più non consentiamo alla nostra cabina di regia che governa le nostre azioni di lavorare al meglio, per cui capitano quegli incidenti quotidiani come ad esempio andare in una stanza e non ricordare che cosa siamo andati a fare, oppure esco di casa, non ricordo se ho chiuso la porta a chiave, lascio il cellulare certo. E non ricordo dove l'ho lasciato. Il motto che io vorrei dare è vado piano perché ho fretta. Vado piano perché ho fretta. È vecchio come i romani. Ed è bene ricordarlo. 800 24 00 24, possiamo misurare questo nostro stress anche per capire quanto ha eroso delle nostre abilità cognitive, ci mette in difficoltà. Vogliamo proporre un test? Proviamo un test su che cosa, professore? Beh, io proverei un test sulla capacità di concentrazione e appunto di memoria di lavoro. Io dirò una sequenza di numeri. Sì. Gli ascoltatori dovranno battere la mano destra quando sentono un numero pari e la mano sinistra quando sentono un numero dispari. Allora, possiamo quindi fare questo esercizio in diretta. Se volete candidarvi per avere una valutazione del professor Iannocari e quindi misurarvi con questo esercizio, lui vi dirà al momento di quando voi chiamerete una sequenza di numeri, voi dovete battere la mano destra o la mano sinistra per i numeri pari o per i numeri dispari. Alla fine dell'esercizio, che durerà in tutto 30 secondi, dirci esattamente quante volte, quanti numeri pari ci sono e quanti dispari. Perfetto. 800 24 00 24, abbiamo Angelo da Bari e Franco da Ferrara. Buongiorno Angelo. Buongiorno, buongiorno. Io sono un corridore regolare, mi ritengo regolare perché corro 3 volte la settimana, la settimana al mattino presto, all'alba, in la domenica un po' più tardi, ma sempre al mattino presto. Sì. Avverto 2 difficoltà dopo, nonostante mi alleno da diversi anni. Se la mia corsa diventa non più lunga, perché non è quello il problema, ma più intensa, avverto dopo la corsa sia dolori alle articolazioni, ma soprattutto una cefalea che può essere leggera o più intensa, o più acuta, dipende dalla giornata, velocità, dipende dall'intensità. Io questa cosa qua con gli allenamenti, perché ho preparato anche delle maratone, ho fatto delle maratone, riesco ad attutire questi disagi, ma non ad eliminarli, e soprattutto quando sono in allenamento più rilassato, cioè in periodi più rilassati, queste problematiche si rivelano sempre più frequentemente. Basta che faccio una seduta un po' più intensa, sia il dolore sulle articolazioni. Abbiamo capito. Grazie Angelo. Allora, dolori alle articolazioni e cefalea durante l'allenamento. Tite, che cosa suggerisci tu? Mi metto nei panni? Sì, mettiti. Mi analizzerei prima di tutto se bevo abbastanza e poi come sto col peso. Perché se quando sei più rilassato vuol dire spesso mettere su 1-2 chili, e 1-2 chili sulle ginocchia fanno la differenza. Provate con uno zainetto, portatelo fuori con 1-2 chili, fate tutta una giornata in piedi e sentirete le ginocchia. E quindi non può essere magari legato anche al metodo di corsa? Beh, vuol dire che stai stressando, cioè che stai facendo di più di quello che in quel macro periodo più rilassato sei allenato, ecco, a fare. Di fronte a queste situazioni, ecco, la gradualità, in cui il nostro corpo ci manda dei segnali che da soli non riusciamo a gestire, sarebbe opportuno rivolgerci ad un esperto, certo, per una valutazione generale, che può partire dalle scarpe che indossiamo, al nostro modo di correre, alla nostra alimentazione, perché siamo nati per correre, ma se la corsa non ci procura benessere, qualche cosa stiamo sbagliando. Franco da Ferrara, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Io vado a correre un paio di volte alla settimana, la mattina soprattutto, e la mia è una corsa che definisco depurativa, nel senso che mi piace andare a correre per sudare, per sentirmi pulito dentro. E niente, volevo chiedere questa cosa. Io corro molto piano, cioè faccio una sorta di quasi corsa sul posto per 6-7 km, sto fuori 45 minuti. Se è vero che correre piano si cala di più, ci si depura di più perdendo tossine col sudore. Concludo dicendovi che più sudo, più mi sento soddisfatto anche mentalmente, più sto bene. Allora, questa è la mia domanda. Questa è la domanda, e coinvolgiamo anche il nostro dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. La coinvolgo subito per rispondere alla richiesta del nostro ascoltatore. Ascoltatore ferrarese che andrà a correre sulle mura, dove ho corso per tanti anni io, visto che studiavo lì. Posto molto bello, ma direi che in realtà si brucia sempre un po' tutto correndo, no? Non è che a bassa intensità si bruciano solo i grassi, ad alta intensità solo i carboidrati, si brucia sempre una miscela, però sicuramente a bassa intensità posso andare avanti più a lungo e quindi complessivamente magari riesco a ridurre di più. Sul sudore direi che è una cosa molto soggettiva, cioè il sudore ha questa grande capacità di aprire il microcircolo anche nelle zone, diciamo, dove normalmente la circolazione è abbastanza scarsa, e quindi certo contribuisce all'eliminazione di un certo grado di tossine. Poi è bene reintegrare in termini di liquidi, perché chiaramente si fa presto a disidratarsi se si suda molto. Sono una dinamo, dinamo, dinamo, e mi ricarico, carico, carico. Sono una dinamo, dinamo. Energia, dottor Ongaro, è quello che ci vuole per i piedi e per il cervello, per correre con le gambe e con la testa. Ma quale energia per mettere le ali ai piedi, dottor Ongaro? Beh, ricordiamo sempre che alla fine, quando parliamo di energia, che parliamo di cervello o piedi, stiamo parlando di cellule che hanno bisogno di carburante, ovviamente, per produrre appunto l'energia, e in questo caso molto importanti sono i carboidrati, che noi spesso ridimensioniamo nel loro ruolo, ma in realtà in termini energetici sono ovviamente un carburante di più facile utilizzazione. L'importante è usare quelli giusti, cioè quelli integrali, e sapere anche sfruttare i momenti giusti per utilizzare i carboidrati. Per esempio, se parliamo di corsa, chiaramente prima della corsa i carboidrati sono in grado di darci l'energia che poi utilizzeremo nel momento in cui facciamo attività fisica, ma ancora più importante immediatamente dopo gli allenamenti. Il momento subito dopo l'allenamento è il momento in cui i muscoli sono più preparati, più predisposti a incamerare nutrienti e a ripristinare le scorte, diciamo, di energetiche che sono state consumate. Quindi utilizzare i carboidrati integrali in queste circostanze, magari anche assieme a delle proteine, soprattutto dopo gli allenamenti, aiuta i muscoli a recuperare più in fretta. Mentre per il cervello? Per il cervello direi, perché premesso ci sono che anche sedentari. Premesso che anche il cervello ovviamente utilizza i nutrienti a scopo energetico, direi che è più importante dare una certa regolarità, cioè il cervello soffre abbastanza degli sbalzi di glicemia eccessivi, e quindi quello che conta è distribuire molto bene i nutrienti nel corso della giornata, per non avere né dei cali glicemici eccessivi che si trasformano in stanchezza, ma nemmeno il contrario, cioè nemmeno dover ricorrere alla classica bustina di zucchero per recuperare, che poi ti dà questa sferzata energetica, per modo di dire, perché crea un'iperglicemia che non ci fa assolutamente bene. Vedo che il professor Iannoccari e Tite Togni annuiscono, siete tutti d'accordo? Lei ha detto la bustina di zucchero, che molti usano come una sorta di integrazione. E a proposito di integrazioni, quando, come, perché? E quali? Ma si parla molto di integratori. Allora, premesso ovviamente che con gli integratori è un termine che vuol dire tutto e niente, nel senso che sono tantissimi, ed è chiaro che in alcune circostanze, come dicevo prima, per recuperare sali e minerali, questi sono utilizzati da tanto tempo. Una cosa molto interessante sono le erbe adattogeniche, Nicoletta, le piante che potenziano la nostra capacità di adattarci allo stress e quindi anche di tollerare i carichi di lavoro tipici di chi magari si mette a correre e ha come obiettivo di fare una maratona. Un esempio sono il ginseng e la rhodiola rosea, due piante adattogeniche molto, molto utili, che ci aiutano a tonificare l'organismo senza però essere assolutamente eccitanti. Quindi non è una risposta, diciamo, che ha un risvolto anche negativo, ma è proprio un rafforzamento delle capacità di adattamento che può essere molto utile anche allo sportivo che si allena con una certa regolarità. Mi piacciono. Posso chiedere... Dove? Già che ci siamo, sì, prima... perché un altro modo è quello di assumere i carboidrati più a lenta combustione. Allora, certo. Tipo l'avena. Dottor Ongaro. No, no, assolutamente. Noi, carboidrati, noi diciamo carboidrati integrali in senso generico, ma tutti, anche le differenze tra i diversi tipi ovviamente contano. Più lenti sono da un punto di vista energetico, anche se può sembrare un paradosso, meglio è. Chi va piano va lontano. Dottor Ongaro, grazie per questo info sulle piante adattogeniche. Grazie a voi. E grazie per... Noi ci sentiamo intanto prestissimo. Dobbiamo andare a sentire i mercati, poi il meteo, poi fatevi sentire voi che correte con la piedi, con la testa, insomma. 800 24 00 24, test e valutazioni in diretta col professor Iannoccari e Tite Togni. Essere e benessere. Speedy Gonzales, ritorna da me. Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più. È stato un tempo lento, lento, lento, lento, lento. Tite, possiamo sentirci questi due brani per andare veloci o lenti, che sono le due andature della corsa. Sì, ci sono due andature della corsa, quelle per quelle, la corsa di fondo, lenta, viene usata anche come corsa rigenerante, dopo gli allenamenti, perché l'importante, insomma, è alternare, perché pare che, il professore ce lo può dire, pare che proprio l'alternanza tra veloce e lento dia la possibilità alla mente e al corpo di assorbire, di far diventare quasi automatico il miglioramento. Quindi è importante l'alternanza per sia dei due ritmi. Dei due ritmi, tant'è che chi fa le tabelle sa benissimo che ogni giorno viene presentato con degli allenamenti che proprio alternano andature velocissime con momenti di riposo. Come capire l'andatura, il veloce o lenta? Perché sembrano due termini. Il respiro direi che è un bel metronomo, nel senso che, vabbè, si dice che una corsa salutare, cioè misurata e giusta per te, in quel tuo momento di allenamento, è quella per cui riesci sempre a colloquiare con la persona accanto. Però così facendo non ti alleni mai, non vai mai oltre. Sì. Per cui ci tu sono dici, gli basta chiacchiere, andate avanti. Sì, perché l'uomo certo. È così, vuol sempre andare un po' avanti, fin troppo spesso. E deve ascoltarsi, ma può progredire. Per progredire adotta questi allenamenti in cui sperimenta delle andature molto più veloci o più veloci. Sì, le ripetute. Le famose ripetute. Perché ripetuta, ormai so. Ecco, le ripetute giovano, come dicevano già i latini. Professor Iannoccari, la resistenza per il cervello è la concentrazione, mentre la velocità è la velocità con cui riusciamo ad elaborare. Noi abbiamo cercato di, abbiamo proposto agli ascoltatori di misurare la concentrazione con l'esercizio. Breaking news. Ci colleghiamo per parlare del conclave con la nostra Katia Caramelli a Roma. Katia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In questo momento la fumata, che sembra essere proprio nera, quindi se così dovesse essere confermato, sai che sul colore c'è sempre un po' di dubbio, ma inequivocabilmente sembra essere nera, se così dovesse essere, gli scrutini della mattina sarebbero andati a vuoto, più quello di ieri, 3 scrutini andati a vuoto, e a questo punto si tornerà a votare nel pomeriggio dalle 16.30 con due scrutini, fumata intorno alle 19 se non ci dovesse essere prima l'elezione. Quindi nuova fumata nera per il conclave, chiudiamo qua questo appuntamento e naturalmente sentiremo cosa succederà nel pomeriggio più tardi. E noi riprendiamo con il professor Iannocchi in attesa di ulteriori aggiornamenti dalla nostra redazione. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di misurarsi, non useremo le mani perché molti hanno la cornetta, giusto? Possiamo usare le lettere dell'alfabeto. Ecco, vede qua l'intuizione. Maria Teresa da Caserta, mi segnalano dalla regia che vuole sottoporsi al test della concentrazione. Maria Teresa è pronta, intanto potete farlo voi anche da casa. Buongiorno. Buongiorno. Allora Maria Teresa è pronta? Sì, prontissima. Ok, il professor Iannocchi diceva invece che battere la mano destra e la mano sinistra deve dire, professore, la guidi lei. Sì, quando io dirò un numero pari lei dirà A, quando dirò un numero dispari dirà B. Va bene. Che equivale poi alla battuta della mano e poi al termine mi dirà quante volte ha detto A o ha detto B. In pratica quanti sono i numeri pari e i numeri dispari. Quindi senza ripeterla ad alta voce? La lettera B sì. Ok. Sì. Se io dico ad esempio 24, lei mi deve dire A. A. Ok. Lo fa in però veloce, a proposito. Allora partite. Pronti, via. 24. A. 12. A. 7. B. 8. A. 20. A. 31. 42 A 27 B 11 B. Bene, quanti sono? Sono due dispari e ho quattro pari. Sono sì, qualcuno in più. Ok. 5 pari e 4 dispari. Allora, però è stata bravissima Maria Teresa, che valutazione possiamo fare? Non ha risposto in modo preciso, ha comunque provato e quindi ha già allenato la sua concentrazione. Sì. Da 0 a 10 che valutazione può fare? Io gli do un buon 8, è stata bravissima Maria Teresa. Quindi non deve fare ulteriori allenamenti? Ah, sì, beh, gli allenamenti valgono sempre anche per i campioni, per cui non diamo è mai qua, limiti. E qua che ve la volevo, professor sì. Iannocchi, perché tra i nostri ascoltatori non è riuscito a portare esattamente a termine in modo preciso il compito, quale suggerimento possiamo dare? Io suggerisco di partire da un numero qualsiasi, sì? E andare all'indietro saltando per esempio di 2 in 2 poi di 3 in 3 e così via. Per esempio ho 24, parto da 24 e faccio 24, 22, 20, 18 e così via. Poi man mano che divento abile in questo compito aumento il numero della sottrazione, per cui faccio meno 3, meno 4, il 5 lo salterei perché è semplicino, il 6, il 7 è quello che e così sapevo via, fare . Io. Allora Maria Teresa da Caserta, un libro della libreria di Essere Benessere, intanto grazie Maria Teresa e complimenti. Grazie a lei. Grazie per aver partecipato e per essersi per la trasmissione. Grazie. E per essersi allenata con noi, perché oggi vogliamo continuare ad allenarci, naturalmente con le due andature, veloce e lento, con i piedi e con il cervello, sempre sottolineando che per correre ci vuole testa e quando la testa è affollata da pensieri, problemi, preoccupazioni, correre aiuta. I pensieri diventano più leggeri e abbiamo una migliore capacità di ragionamento. Vediamo più chiaro intorno a noi e dentro di noi. Essere e benessere. C'è tempo per ogni cosa e ogni cosa al suo tempo. E ora è tempo di salutare il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Professore, a proposito di tempo, la cronobiologia ci dice che c'è il momento ideale per ogni attività. Chi lo conosce ne approfitta. È vero, diciamo che i ritmi endogeni del nostro organismo controllano e regolano praticamente tutte le nostre funzioni. Professore, qual è il momento allora ideale per correre? Molti corrono al mattino, anche tite toniche qui mi sembra, no? Che lei sa già la risposta, ma fa bene? Beh, diciamo che sostanzialmente se uno mi fa la domanda se fa bene farlo ognuno quando può. Se mi fa la domanda quando è il momento migliore, la macchina muscolare dell'uomo è fatta sì per essere utilizzata prevalentemente nelle ore pomeridiano-serali, le ore in cui si alza la temperatura, gli enzimi aumentano, l'attività metabolica aumenta e anche la prestazione migliora. Professor Manfredini, la maratona di Roma, che è il prossimo appuntamento, potrebbe slittare nel pomeriggio per l'elezione del nuovo Papa. Si correrebbe quindi un po' contro il tempo, a favore del tempo, sempre nella macchina uomo? Ecco, diciamo che la maratona forse è un'eccezione, perché mentre tutte le attività sportive sono di solito indicate prevalentemente nelle tardo pomeriggio, comunque per la maratona invece più delle volte la maratona viene svolta al mattino. Questo perché l'organismo del maratoneta alza la propria temperatura ad un punto tale che si cerca di non portarla nelle ore in cui già la temperatura dell'organismo è più alta, quindi di solito si corre al mattino. Andare a correre al pomeriggio, ecco, diciamo, speriamo che a Roma non sia una giornata molto calda. Perché sarebbe uno stress in più dover... Sarebbe un aumento ulteriore della temperatura corporea, che già di per sé il maratoneta porta a valori altissimi. E lei avrebbe un suggerimento per questi maratoneti costretti a correre al pomeriggio? Idratarsi molto e fare in modo di termoregolare, quindi vedo che si buttano acqua, spugnette, queste cose qui, ecco, diciamo cercare di termoregolare il più possibile. Termoregolate se la maratona viene posticipata al pomeriggio. Professore, ci sono invece delle ore evidentemente migliori anche per pensare, creare, studiare, per usare bene la testa? Sì, sì, diciamo che intanto le ore dell'apprendimento sono un po' quelle del mattino, quindi la scuola da questo punto di vista è piazzata in maniera ideale, però la fascia migliore per le nostre performance cognitive è proprio quella delle prime ore del pomeriggio, sempre perché parallela con la temperatura corporea, e noi sappiamo che ogni grado di temperatura la velocità dei neuroni e il tessuto di conduzione aumenta. Professore, c'è un'ora straordinaria e imperdibile salutare della nostra giornata. Ah, non ho dubbi. Posso dirgliela anche io se vuole. Me la dalle dica... 11 alle 12, guai chi si perde essere benessere. Grazie, professor Manfredini. Buonissima Grazie giornata. A Grazie a voi e buona giornata anche ai suoi ospiti. A proposito di velocità, professor Iannoccari, sì. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo, avete parlato di razzo. L'abbiamo fatto, un gioco a cui abbiamo dedicato proprio l'apertura di una puntata, allena, aiuta la concentrazione. Cosa fa questo razzo? Più siamo bravi, più siamo allenati. Che cosa dicono gli esperti? Razzle è un gioco di divertimento, è un gioco che porta divertimento, e anche la sfida è una componente abbastanza ludica che credo sia il successo di questo gioco. Dal punto di vista delle funzioni mentali dobbiamo fare dei distinguo. Mentre velocizza la capacità di pianificare la composizione delle parole, crea però un effetto che a noi non piace, che è quello della frammentazione della concentrazione, in quanto il gioco si svolge in 2 minuti. Sì. E quindi entro 2 minuti io devo mettere il massimo dell'efficienza per realizzare il maggior numero di parole. Il problema è che questo non consente alla nostra capacità di concentrazione di allenarsi, quindi di diventare resistente e costante, che è la funzione che invece andrebbe sviluppata di più, la capacità di andare oltre i 50 minuti, che è la curva della nostra attenzione, ed essere prolungata. Il nostro tempo quindi crea proprio questo per difetto. Compensare, dato che Razzle è un gioco, piace, appassiona e ha i suoi vantaggi, per compensare quello che Razzle rischia di non darci, quali esercizi bisogna fare? Possiamo fare in abbinata Razzle. Guardi, va benissimo il Razzle, ma prendiamoci tutto il tempo necessario, per cui partiamo da una sequenza. Allora ci vincono, ci battono, non vinciamo più. E quelli del Razzle? Sì. Non so, perché nei 2 minuti sarà possibile, ma andando avanti può darsi che loro avranno il fiatone corto, mentre noi andiamo meglio all'allungo. È un consiglio che possiamo dare anche ai maratoneti, siamo partiti dai 2 minuti, Tite? Mi viene in mente una cosa che può essere illuminante per chi corre. I Tarahumara sono questa popolazione nascostissima, vive nelle caverne del Messico, al confine tra il Messico e il Texas. Fanno una gara tra di loro più di 200 chilometri, scalciando, portando avanti una palla di legno per centinaia di chilometri, e sono così allenati a fare questo che loro riescono a cacciare i cavalli. Perché è vero che il cavallo in velocità a breve tempo è più veloce, però loro li stancano fino a quando il cavallo non riesce più ad andare avanti. E quindi è questo allenamento, questa resistenza che alla fine è sempre... E anche a livello mentale vale lo è stesso. È mentale. Sì. E poi l'altra cosa che si dice è quello che appunto verrà utile fra poco, ma quello che si dice è la prima parte di gara la fai con le gambe, la seconda parte di gara la fai con la testa. La terza la fai col cuore. Bello, mi piace. 800 24 00 24, se volete ancora intervenire. Io vado a salutare il dottor Marco Rossi. Buongiorno dottor Rossi. Eccomi qua, ciao, buongiorno. Psichiatra e sessuologo, perché abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di resistenza. Allora possiamo essere veloci nella vita, nell'apprendere, nel trovare collegamenti, ma nel talamo, dottor Rossi, la velocità non premia, non va mai bene. Eppure ci sono 4 milioni di italiani che ne soffrono di questo problema, i cosiddetti Speedy Gonzales del letto, no? Visto che parliamo comunque di maratone e di corsa. E quindi, ma non solo gli uomini, tu pensa che ci sono anche il 3% di donne che si lamentano di essere troppo veloci nell'aggiungere l'orgasmo e questo non dà loro una piena soddisfazione nel rapporto. Però, dottor Rossi, la ricerca ci aiuta dicendo? Che dobbiamo fare? Ci possono fare degli esercizi. Allora, da un punto di vista ginnico, gli esercizi, i famosissimi esercizi di Kegel, servono tantissimo. E da un punto di vista psicologico, il mio consiglio è quello di non cercare di distrarsi, come più o meno tutti fanno, no? Diciamo, c'è la barzelletta che gli uomini guardano la partita di calcio mentre lo fanno per potersi distrarre, no? No, questo non va bene, bisogna concentrarsi sulle proprie sensazioni, perché il nostro cervello, sentendo il piacere, vivendo il piacere, cercherà di prolungarlo. Quindi stare nel qui e ora, dottor Rossi, è come insegna anche lo yoga. Dilatiamo per l'appunto. Il presente. Dilatiamo il presente. Grazie al dottor Rossi per essere stato con noi. Buonissima giornata. Anche a voi. Professor Iannoccheri? Vale anche non vale fare il razzo, non vale fare il razzo, ma vale concentrarsi sul partner, quindi magari parlare, anche contemplare le curve, il profumo, le sensazioni del partner, perché le proprie potrebbero spingerci anche, come giustamente diceva il professore, ad accelerare, per cui certo. Vale concentrarci, e infatti si fa in coppia, nostro, esatto, sul nostro partner. Tite, dicevi, si corre con la testa, con il cervello, l'abbiamo sottolineato, prima con le gambe, prima, poi con la testa, esatto, e poi alla fine con il cuore. E questa è la formula vincente. In linea con noi abbiamo una maratoneta, Lucilla Andreucci. Ciao Lucilla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, abbiamo 30 secondi per dire che, ma poi ti ritornerai a trovarci, partono anche in Italia le staffette benefiche. Sì, perché lo sport è un linguaggio universale, quindi arrivando alla pancia un po' di tutti, credo che abbia il dovere di portare anche l'attenzione su temi che possono sembrare lontani, no? Come costruire un pozzo in Africa o dei bambini che hanno bisogno di sostegno. Lo sport quindi può essere messaggero di questo attraverso la raccolta fondi che gli eventi sportivi in Italia stanno cominciando a partire dalle maratone, dalla maratona di Roma domenica e dalla maratona di Milano il 7 aprile. Perfetto, e Lucilla la troverete anche sulla nostra pagina, vado subito a intervistarla. Grazie, Radio a domani. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.